Il punto nel cuore è il punto di partenza di questa ricerca. Quindi uno deve venire alla più profonda delusione, alla più profonda disperazione, perché solo allora si può vedere la luce. Vedere la luce tramite lo sviluppo di sé completamente vuoto. Quando voglio vedere la luce, devo fare me stesso con le qualità della luce. E queste qualità è l'aspetto dell'assoluto altruismo. Quindi la seconda fase è il punto nel cuore, nato dalla disperazione più profonda, la delusione. Non c'è nulla che possa soddisfare questa persona. Il creatore vuole solo una cosa. Devi rinunciare a tutti gli strati esterni per venire agli strati interiori. Questo è ciò che intendiamo con sacrificare se stesso. Questo è l'unico aspetto che sarà visto dall'alto. Una volta lasciato questo mondo materiale, ci sarà solo una domanda dal superiore. Hai lavorato al tuo interno? Hai vissuto conforme la storia o conforme al tuo vero io, l'essere interiore? Questa è la nascita dell'uomo. Ogni persona deve venire alla propria rinascita. La rinascita è il sentimento del punto nel tuo cuore e non nel al di là. È il punto in cui ti senti la separazione. Inizi a sentire che la luce è buona e tutte le altre cose sono malvagie. Ogni cosa è a due pieghe. Devi provare entrambi per venire a prendere la giusta decisione. Il desiderio del Creatore è di dare il bene e il piacere. Questo è ciò che devi fare, ricevere. Questa è una legge dell'universo. Lui dà e io ricevo. Questa è la nostra natura, ricevere. Ma per divenire uno con la luce, devo sviluppare la stessa qualità di lui, il dare. Quindi devo vincere la mia natura, l'aspetto del ricevere, nell'aspetto del dare. Questo è ciò che devo sviluppare in me stesso, a dare in modo assolutamente disinteressato. Questo è come sono stato creato, questo è l'aspetto della mia natura, la ricezione. E finché rimango nell'essere esteriore, non posso venire alla mia realizzazione. Solo nell'aspetto del dare che posso venire alla realizzazione. Ogni cosa viene dalla luce, dall'alto. Ogni guarigione viene dall'interno, dal mio interiore. E quando ascolti la parola guarigione, non commettere l'errore che stiamo parlando del corpo fisico, è solo la conseguenza. Quando impari la Kabbalah, la luce ti penetra, sarai circondato dalla luce. E più impari a dare nel mondo reale, più ti sentirai vivo. La terza fase è l'estensione del punto nel cuore. Tutto viene dallo spirituale. Costruendo il tuo interiore, alla fine vincerai il tuo esterno. Sarai il capo sul tuo destino. Sei tu che controlli tutte le tue azioni. Il dare è un aspetto del mondo spirituale. In un certo modo vedrai che i tuoi occhi saranno aperti. E poi, per mezzo di questa forza interiore, vincere l'esterno. E questo è il desiderio del Creatore, che supererai l'esterno. Solo allora puoi arrivare alla vera liberazione. Niente è sbagliato. Il tuo modo di pensare è così perché la tua vita è in questo mondo. Ma ricorda che il tuo essere interiore non vede alcun male. L'essere interiore sperimenta la gioia, la luce. Solo l'essere interiore può avere una gioia assoluta. L'essere esterno è colui che sente emozioni. Esso è l'essere esterno che è ferito. L'assoluto è dentro l'essere interiore. È tutto ciò che non riguarda l'interno è da vedere come animale. Certamente ancora umano, ma piaceri animali. Solo colui che è in contatto con il suo essere interiore capisce che non c'è la morte. Che non c'è persona che possa danneggiare un'altra persona, perché il vero essere umano è l'essere interiore. L'intero sviluppo si trova nella tua consapevolezza, nella tua osservazione. Qualunque cosa che è fuori di me è solo il creatore. L'essere interiore è focalizzato sul creatore. Lezione 2. Chiunque si tiene occupato con il suo essere interno, lavora con il suo essere interiore. È un ebreo spirituale. Nessuno di noi può arrivare all'unità con le qualità superiori finché non si effettuano correzioni. Tutti i nomi che vediamo nella Bibbia, come Mosè, Abramo, Sara, eccetera, sono punti di forza speciali. L'intera Torah, l'intero Vecchio Testamento, scrive di un'anima, un'anima significa una anima, di una anima. Abramo è forza, Sara è forza, è ciò che vediamo è la forza maschile e la forza femminile. È questa forza la devi costruire dentro di te. Nessun uomo può arrivare alla pienezza finché non ha sviluppato il lato femminile dentro di lui. Ed è lo stesso per una donna. Solo quando entrambi i punti di forza sono sviluppati all'interno di una persona, allora possiamo dire che la ricchezza florirà come una palma. Quando un uomo vuole arrivare alla sua realizzazione, deve sviluppare il suo lato sinistro, il lato femminile dentro lui. Quando trascura questo lato e lavora solo con la sua forza umana, la sua forza maschile, diciamo, in un certo modo ha ancora mancanze. L'uomo deve svilupparle entrambi. Questo è lo stesso per una donna. Solo quando uno ha sviluppato la forza dentro di sé, lei, può raggiungere l'adempimento, la completezza. Solo quando uno ha portato lo sviluppo all'interno, solo allora possiamo dire che uno è libero, libero dai desideri animali. Solo allora possiamo dire che uno ha il controllo sulla sua personalità. Quando l'uomo e la donna sono sposati, ricorda che questa è solo una relazione dall'esterno, dall'essere esterno. Certamente ognuno di noi ha bisogno di sesso, cibo e bevande, ma questo non significa che uno abbia una relazione. Attraverso la connessione con tuo marito, moglie, tu guardi solo te stesso, vedi solo il tuo lato destro o vedi solo il tuo lato sinistro. Ma ricorda, la vera relazione si trova con e nel tuo interiore. La vera forza del creatore sta nella Malchut. Solo lì aspetti maschio e femmina. sono esistenti in questo mondo. Non c'è separazione nel mondo spirituale. Diventa consapevole di ciò che parliamo nella Kabbalah riguarda solo lo spirituale. Mai parliamo di corpo fisico o di emozioni. Il corpo può essere cambiato. Sai che il cuore è anche fisico? Puoi sostituirlo. È un organo. È anche fisico. È un organo, è anche fisico. Ma l'anima rimane invariata. L'anima non è qualcosa di fisico, è spirituale. Non parliamo di questo mondo. Certamente c'è un parallelo con questo mondo e devo usare le parole di questo mondo, ma questo non significa che parlo di questo mondo. Posso, per esempio, parlare di Papa di Roma, ma non sto parlando dell'uomo in persona, della persona fisica, ma riguardo qualcuno che ha il potere e guida questa religione. Tieni questo nella tua mente ogni volta che inizi a leggere. E c'è un'altra cosa che devi sempre tenere in mente. E questa è la domanda. Perché sono qui? Per la conoscenza? Assolutamente no. Siamo seduti qui, insieme, perché noi vogliamo imparare come entrare in contatto con lo spirituale. Lo spirituale è la luce splendente e scintilla dentro di noi. Ciò che chiamiamo il materiale, essere terreno, è l'essere esterno. E questo non è un argomento della Kabbalah. E questo è molto importante per te da ricordare e capire. Solo quando sei preparato a fare correzioni dentro te stesso, nel senso non seguire la strada dell'essere esterno, ma iniziare a trovare la strada da percorrere all'interno, quindi solo allora posso darti qualcosa. Ti sto solo guidando, ti sto solo guidando te verso l'essere interiore. Ma deve esserci anche il tuo desideri. Ma per venire al tuo essere interiore devi penetrare tutti gli strati dell'essere esterno. Solo all'interno del tuo essere interiore troverai l'essenza. Questo è il punto in cui ha luogo lo sviluppo del maschile e femminile in ognuno di noi. Solo quando una persona ha portato questo in equilibrio, questa persona è chiamata una persona giusta o un santo. Solo dentro l'interno puoi sviluppare il maschile e femminile, per venire in equilibrio con te devi andare al tuo essere interiore. Ci sono quattro modi di comunicazione. Il primo, il più basso, è l'aspetto del ricevere per il ricevere. Questo significa che vuoi ricevere, non importa cosa succede. Quello che il risultato è, lo voglio ricevere. Ad esempio, vuoi qualcosa, non importa quale sia la cosa, ciò che conta è che vuoi averlo in tuo possesso. Qui vediamo il furto, stupro, eccetera. Questo è puro desiderio animale, una forma animale dell'egoismo. La fase successiva è io do, ma voglio ricevere. Questo è un aspetto che appartiene anche all'essere esterno. C'è un detto: io gratto la tua schiena e tu gratti la mia. Questo non è dare, questo è fare un accordo, è diventare consapevoli di esso. Succede nel modo più sottile. Questo è chiamato l'egoismo culturale. Ti sopporto così, tu devi sopportare anche me. È un atteggiamento infantile. Finché una persona è fermo dentro queste due fasi, non è pronto per la Kabbalah. La fase successiva è la fase del dare per il dare. Ci deve essere un desiderio nel cuore. Deve esserci la conoscenza, la consapevolezza che ognuno sta tenendo solamente un'apparenza. Una volta che arrivi a questo punto, allora arrivi, sei venuto all'inizio del dare per il dare. Questo è il punto di partenza della correzione, ma non è l'obiettivo finale. Non ho la forza per venire alla quarta fase, la fase di ricevere per dare. Cosa intendiamo menzionando il nome del Creatore? Chi è il Signore? Il Signore è l'aspetto del dare, la forza che dà. Non sappiamo chi sia lo stesso Signore, non lo sapremo mai, ma cosa possiamo conoscere è la sua manifestazione. E questa è la qualità del dare. La sua qualità è l'aspetto dell'assoluto altruismo. Questa qualità è versata fuori nell'universo. C'è solo l'assoluto altruismo. E siamo fatti di questa qualità? La qualità dell'altruismo. Da qualche parte nel profondo di me, io ho anche questa qualità. Ma la contraddizione è che siamo fatti solo per ricevere. In che modo noi riceviamo non è importante. Il Signore vuole solo dare. E come e cosa riceviamo da Lui è ciò che è dovuto a noi. Non c'è vita assoluta quando c'è solo il ricevere. E il dare per ricevere è commedia, una bugia. Tutto l'aspetto del dare che vediamo in questo mondo non è il dare, è la storia che ci dice che dobbiamo dare. La storia significa religione, cultura. Dobbiamo dare soldi, per esempio, alla Greenpeace o a qualunque autorità abbia bisogno di soldi. Dobbiamo dare per salvare il mondo, ma questo non è la via di venire alla tua correzione. Nessuna religione, nessuna persona religiosa può venire nella via del dare, come abbiamo descritto sopra. Lui o lei non può venire e non verrà a correzione. Ma quanto parliamo di ricevere per il dare, io ricevo e voglio dare, significa vedo che lui, il creatore, lui è colui che dà. E il desiderio del creatore è che io ricevo. Allora il mio dare è per piacere al creatore. Tu sai, quando ricevi qualcosa e sei grato a colui che dà, questa è anche una forma di donare. E questo è sconosciuto in questo mondo. È un regalo dall'alto. E per noi è un regalo prezioso. Questo è il dare per la causa della luce di correzione. Sacrificare te stesso in favore della luce. L'originale luce di creazione. Questa è la luce di Chochmah in ebraico. Il dare è la luce, il dare è la luce di Chassadim e il ricevere, il ricevente. All'interno di ogni essere c'è una diffusione della luce in tutti i tipi di strati. E questa scala completa di luce noi chiamiamo Parzufim. Parzuf è Parzufim in plurale. In ogni persona puoi trovare questo splendore, del profondo c'è un buco di questo splendore. Devi imparare a sperimentare il mondo spirituale. Non c'è comprensione nella Kabbalah con il tuo intelletto, la tua testa. Devi andare oltre la tua comprensione. E questo è così contraddittorio in quello che stiamo facendo, specialmente nel mondo occidentale. Qui uno pensa di ricevere l'onore, tanto è più l'intelletto e più è l'onore. Ed è impossibile sacrificare l'intelletto. Comprensione oltre l'intelletto, questa è la pietra d'inciampo. Leggendo questo, ci sarà più comprensione su questa espressione. Per rinunciare al tuo intelletto, al tuo ragionamento per il bene dell'alto. Tutto è dentro di te e non c'è bisogno per sacrificare te stesso. Ciò che sacrifica e che sacrifichi è solo dall'essere esterno. Qualunque cosa è dentro di te, cosa sacrifichi, è per l'essere interiore. Non c'è bisogno di sacrificare animali. Nei primi tempi l'uomo era molto primitivo. Essi erano come bambini. Erano molto primitivi nel loro modo di pensare. Non lo sapevano. Ora, ma ora noi sappiamo che quel sacrificio che stiamo per fare è il sacrificio della forza animale, la forza inferiore dentro di te. Non era possibile per l'uomo in quei giorni di vedere il loro essere interiore. Questa è la prima generazione. Ora, questa è la prima generazione che può vedere l'essere interno. In quei giorni la loro coscienza era così piccola. Il loro ego non era ancora sviluppato. Oggigiorno c'è un enorme desiderio di ricevere la luce. Di cosa ho bisogno per ricevere l'acqua? Ho bisogno di un barile. È lo stesso con la luce, che la luce ha bisogno di un recipiente. Un barile è come il vuoto dentro di me. Attraverso il mio amore per me stesso ricevo il vuoto. È attraverso l'amor proprio che posso vedere il vuoto e la disperazione. La più profonda disperazione. Abbiamo bisogno di questo solo perché possiamo vederlo. Cosa vedi? Tutto diventa inutile, non necessario. Solo allora possiamo ricevere la luce. Ora noi vediamo la vita come amara verso dolce, ma nel luogo più interiore vediamo lo splendore della luce. E questo è il posto dell'essere interiore. La zona neutra, la zona in cui il bene e il male possono essere sentiti, è il mio essere esterno. Sii consapevole che l'essere esterno non è il mio corpo fisico, non la pelle, le ossa, le emozioni, eccetera. Questo ha a che fare con il lato esterno della mia anima. Questa è la parte che chiamiamo l'anima animale nell'uomo. L'essere interiore è l'anima divina. E tra queste due zone, in un certo senso la parola neutrale non è una buona parola, ma tra queste due zone vediamo la zona dell'uomo che può correggersi. L'essere esterno, la zona di correzione, l'essere interiore, solo l'essere esterno ha bisogno di correzione, il bene e il male in lui. In questo vediamo tutti i nostri desideri, ricchezza, potere e scienza. In questa zona vediamo i desideri dei più grandi distruttori, ma anche dal più grande scienziato. E questa zona ha bisogno di essere corretta. Sappiamo che la religione non ci porta alla correzione di questa zona. Rimangono al lato interno dell'essere esterno, ma è ancora l'essere esterno. Dobbiamo attraversare anche questa zona. Noi dobbiamo penetrare nella zona della tradizione, della cultura, per raggiungere l'essere interiore. E la religione non può portarci a questo punto. È ancora una storia per bambini. E fino a quando credi nella religione, credi nella storia, e la storia è per i bambini. Ma tu devi crescere, ricorda, e vieni a conoscenza di ciò. La religione rimane nella parte interiore dell'essere esterno. Quando vuoi arrivare alla tua realizzazione, interezza, devi imparare la Kabbalah, perché nella Kabbalah impariamo come andare oltre la nostra comprensione e non andare sotto il nostro intelletto come la religione fa. Qui troviamo sotto il nostro intelletto, troviamo il fondamentalista. Quando uno è sotto il suo intelletto, non è in contatto con lo spirituale, non lavora su se stesso. ma colui che viene al confine, lui che sta correggendo se stesso, è colui che sperimenta il bene e il male. È arrivato al punto del risveglio, risveglio. Chiamiamo questo risveglio il punto nel cuore. Il Creatore non vuole bugie. C'è un modo per avvicinarsi al Creatore, cioè lavorando su se stesso. È scritto nel libro Le porte della salvezza. Quando tu dai a te stesso il tuo essere interiore, aprirà le porte. Solo arrendendosi si può arrivare in verità alla vera pace. Quello che devi fare è sacrificare il tuo essere esteriore per venire al tuo essere interiore. Tutti gli strati sono dentro di te. È tutto in te ed è compito tuo venire all'esperienza di tutti questi strati e sacrifici. Questo è ciò che intendiamo arrendendoci, lavorando su se stesso. Sei tu che devi imparare ad andare oltre la tua comprensione, oltre il tuo intelletto. Allora possiamo vedere la via per la salvezza. Ricorda che il Creatore non interferisce con l'essere esterno. Lui, il Creatore, non ascolta il tuo essere esterno, il lato animale dell'uomo. Devi venire al vuoto assoluto, fino alla disperazione più profonda, il punto in cui non si riesce a vedere l'uscita, che non c'è nessuna possibilità, nessun potere lasciato nella tua vita, perché allora e solo allora uno inizia la ricerca. E questa generazione, siamo i pionieri che preparano la via che conduce all'essere interiore. Il libro dello Zohar e la Torah sono scritte nel linguaggio del mondo spirituale. Lo Zohar è il commento sulla Torah. Tutto è scritto in questi libri, nella lingua del mondo spirituale, le leggi dell'universo. E questi libri ci stanno dicendo che il sacrificio riguarda solo l'essere interiore. Devi imparare a dare dal tuo essere interiore. Non c'è altro modo di dare. Quello che stiamo facendo, ciò che chiamiamo dare, è solo dall'essere esterno. Non immaginare di dare qualcosa. Sei tu che devi venire alla convinzione. Non solo quello, devi sentire che non c'è niente che puoi dare, e solo allora puoi sentire la vittoria. Finché c'è ancora un punto piccolo della convinzione che hai qualcosa da dare, sei perso. Devi lavorare prima a te stesso, nel senso di dare al tuo essere interiore. Questo è ciò che intendiamo sacrificando l'anima esteriore, l'anima animale. E ognuno di noi deve venire a questa esperienza, perché solo allora il desiderio dell'essere esterno diventa trasparente. Lezione 3. Cos'è la purificazione? Che cosa dobbiamo purificare? Qual è l'atteggiamento che devi avere dall'interno? Deve essere un atteggiamento dall'interno, l'esterno. Non mi interessa affatto. L'esterno non ha assolutamente nulla a che fare con la Kabbalah. È il tuo compito. Il solo compito da fare è la connessione con l'interno. Assicura te stesso in modo da poter garantire per le persone intorno a te. Cosa significa questo? Tutti i desideri che abbiamo devono diventare un desiderio. Esso deve diventare il compimento dell'essere interiore. Mia è tua fonte dell'essere interiore. In un certo senso dobbiamo guardare in una sola direzione. E solo attraverso questo atteggiamento, avendo lo stesso desiderio, possiamo sostenerci a vicenda. Tutto è dentro di te, nel profondo di te. Vedilo come il tuo paese, e tu devi diventare il tuo re. Sei tu che devi eseguire le proprie leggi. Vedilo come un compito di vita, un obiettivo di vita. Non è possibile collegiarsi con un movimento, qualunque movimento si pensa, perché l'unica cosa che conta è trovare il vero te. La Kabbalah è un insegnamento molto personale. La Kabbalah ha solo a che fare con il tuo sviluppo personale. Solo quando vengo in me stesso, alla più profonda delusione, la consapevolezza che è così impossibile amare qualcun altro, perché da una profonda intuizione, un sentimento, una consapevolezza della mia mancanza, allora ho raggiunto il punto in cui il lavoro inizia veramente. È l'inizio di me stesso. sei tu che devi arrivare alla comprensione, alla realizzazione. Nessuno può darti amore, nessuno può, solo tu. È la sensazione di essere lasciati ai propri sistemi. Finché non c'è amore per te stesso, è impossibile amare un altro. Se lo fai, stai imbrogliando. Non è giusto, stai solo giocando. Pensi davvero che sia possibile amare un altro finché trascuri chi sei? Devi venire nel punto più profondo, il punto zero per arrivare alla comprensione che non c'è nulla che tu possa dare, assolutamente niente. Allora questo diventa un pianto, un grido serio, come un bambino che sta piangendo. Deve essere la sensazione che solo il creatore può dare una risposta. Tutte le altre cose sono solo un gioco. Sei tu che devi venire nella profonda delusione. Solo allora il Signore può aiutarti. Che cos'è l'amore? L'amore è ogni desiderio non corretto. È il desiderio di correggere te stesso, perché ora conosci tutto il desiderio non corretto. Dai a te stesso, questo è il dare di cui stiamo parlando. Non al tuo vicino che ha bisogno di un po' di soldi o qualunque istituzione. È tutto nel gioco. La correzione del desiderio, questo è il dare. E il resto è solo un gioco. Quando iniziamo a dare a noi stessi, stiamo facendo un legame con il Signore. Dare significa che stai correggendo te stesso. Correggi il tuo desiderio. E non importa quanto piccola sia la correzione, dai al tuo fratello debole che è dentro di te. È di certo il mondo esterno troverà questo molto egoistico, ma il mondo esterno non ha alcuna comprensione dell'interno. Il dare dell'essere esterno è una bugia, ipocrisia. Dai al tuo essere interiore. E fino a quando noi siamo aggrappati al nostro essere esterno, è impossibile arrivare al nostro obiettivo. Quando inizi a leggere queste lezioni, quale deve essere il tuo atteggiamento? Parlo solo dal mio essere interiore, dal mio interiore al tuo interiore. Io come insegnante, qual è il tuo essere interiore? Qual è l'atteggiamento che devo avere dall'interno. Con cosa devo ascoltare, leggere? C'è un principio, la legge di accordo sulla qualità. Quando parlo dall'interno, è l'interiore che deve ricevere. Quindi i giusti organi di senso devono ascoltare. Questo è molto importante. Guardalo come un'arte. Devi sviluppare i giusti organi di senso, non solo i cinque sensi, ma anche il sentimento per lo spirituale. Cerca e trova un posto nel profondo di te. Questo è il posto dove ascoltare. Con e in profondità, in maniera efficiente. In un certo senso ci deve essere un risveglio nel profondo di te per avere il risultato più alto. Quando assisti alla lezione, o in questo caso inizia a leggere, e solo tu usi la tua testa, ricevi solo e solo te, tu e usi, e quando solo tu usi solo la tua testa, ricevi solo 1% di ciò di cui si parla. Non ci sarà scoperta. Certo che vuoi capire, ma usando solo la tua testa raggiungerai un risultato minimo. Si tratta di come la Kabbala ti aiuterà a raggiungere il tuo scopo, il tuo obiettivo. Ascolta con la tua sensazione. Ma qual è il mio sentimento? Nessuno di voi conosce il proprio sentimento. Quando inizia a leggere, devi essere consapevoli. E come posso arrivare alla più alta consapevolezza? Andando nel luogo dentro me stesso, dove si trova la più grande e profonda concentrazione di dolore. Non mostrare agli altri il tuo dolore. Sperimenta solo il tuo dolore, il dolore più profondo, e con questo tu leggi, ascolti. Questo lo stai facendo solo per te. Osserva da quel luogo quello che più ferisce. La Kabbala ti sta aiutando, e ciò che ha bisogno di aiuto lì dove trovi il dolore più profondo, solo allora la Kabbala può aiutarti. Questo è il primo inizio. Osservare con la giusta intenzione è tutto sull'intenzione. E quando hai questa intenzione, puoi muovere le montagne. Andrai veloce come un treno. E questo è possibile per ognuno quando si ha l'atteggiamento giusto, la giusta intenzione Ciascuno di noi può venire alla sua realizzazione. Quello che devi fare è andare nel centro epico del tuo dolore. Da questo punto devi leggere, ascoltare. Si tratta della giusta intenzione. Questo è ciò che vede il Creatore. Un re senza un paese, senza una persona, non è re. Più persone, più felice sarà il creatore, ma deve essere il tuo sentimento, la tua intenzione. Sei tu che devi fare la domanda. E la risposta verrà dall'alto. Nota che la soluzione è nel tuo dolore.